Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ormai sarà per frequentazione personale, per esperienza diretta o perché è stata una delle mie maggiori fonti di attenzione negli ultimi anni, so riconoscere un cervello ribelle. Direi che è esattamente nel ragazzo che sta di fronte a me la raffigurazione concreta di una persona che pensa diversamente rispetto alla media degli esseri umani. Questo sicuramente gli crea disagio, ma questo sicuramente è uno dei motivi per cui non posso fare a meno di fargli qualche domanda. Sì, partirei un pochino dalla mia infanzia, nel senso che non sono sempre stato un bambino facilissimo. Il punto era che avevo qualche problemino in più rispetto agli altri, che però fin tanto sono stato in un ambiente ovattato come la mia famiglia, la cosa non mi ha pesato molto. E direi che poi tutto ciò è esploso con la partenza da casa e quando sono andato a studiare fuori casa all'università, e lì sì che ho incominciato ad avere davvero tanti problemi. Sì, ma qual era il problema che avevi per cui dici mi sentivo un po' diverso? Credevo completamente a quelli che erano i miei pensieri, ero completamente guidato dalla mia testa e anche pensieri feroci che mi dicevano di cose brutte, cose a cui non volevo pensare, continuavano a persistere, a stare lì. Sì, ma avevi parlato con dei medici? Era uno stato, diciamo, patologico, oppure era semplicemente, non so, eri una persona molto fantasiosa con dei pensieri predominanti? Ne ho parlato con dei medici. Che ti dicevano? Mi dicevano al tempo dell'università che soffrivo di disturbo ossessivo compulsivo, perché ad un certo punto la situazione era diventata in alcune circostanze ingestibile. Questo ti dava dei problemi per socializzare, per vederti con altre, per fare una vita, diciamo, fra virgolette, normale di studente? Sì, assolutamente. Diversamente dagli altri studenti, me ne stavo probabilmente più sulle mie, e ad un certo punto era diventato davvero invalidante questo problema. Non che mi mancasse la socialità con gli altri, però ad un certo punto è diventato impossibile, perché avevo difficoltà ad uscire di casa, perché avevo paura di aver fatto saltare in aria tutta la casa e i miei coinquilini perché avevo lasciato il gas aperto, oppure controllavo in continuazione nel percorso verso la classe, di a quell'epoca fumavo, di aver buttato una sigaretta e di aver incendiato qualcosa. Cioè, diciamo, ti facevi dei problemi enormi su circostanze banali. Assolutamente, ed è questo su cui fa leva questo tipo di disturbo. Sulle cose più banali crea dei giganteschi problemi. Ecco, ma che tipo di intervento si poteva fare in questo caso? Di che tipo? Cioè, per farti vivere una vita un po' più serena, perché mi sembra che vivessi abbastanza male se avevi questi sensi di angoscia così profondi per cose che in realtà la maggior parte delle persone non ci fanno caso, non si preoccupano, lo posso capire. E che ti hanno detto, oltre a avertelo diagnosticato, che ti hanno detto che potevi fare per vivere meglio? Il problema è stato proprio questo, che io ho saputo per i primi 4 anni dell'università come si chiamava il mio problema. Per 4 anni però nessuno mi ha detto che cosa fare. Ho assunto farmaci, antidepressivi, ansiolitici. Beh, ti hanno prescritto delle terapie, quindi evidentemente eri sotto controllo medico, quello che serviva ce l'avevi, ecco, a disposizione. Ma ti è servito, ti ha cambiato la vita o rimaneva tutto come prima? Rimaneva tutto come prima, perché il farmaco in quel momento non associato a nulla, quindi ad una mia capacità un pochino di attaccare il problema, rimaneva un po' sterile, nel senso che aveva l'effetto di stordirmi, di sedarmi, però in un certo senso questi pensieri incontrollabili che continuavano ad andare nella mia testa non si bloccavano mai, io continuavo a crederci, a mettere in piedi tutti quelli che erano i rituali che caratterizzavano la mia giornata. E raccontameli un po' per capire com'era la giornata, se no non ci si rende conto di quale fosse realmente e atrocemente il problema. Dimmi una giornata ritualizzata secondo quelle che erano le tue ossessioni. Ma innanzitutto il mio tema più grande era la responsabilità verso gli altri. Il tema che avevo io è sentire un'enorme pressione di aver fatto danni, ho detto cose improprie nei confronti degli altri, e quindi partendo dalla mattina, come ti dicevo, uscivo di casa e avevo paura che questa casa potesse saltare in aria perché avevo dimenticato il gas, mi ero fatto semplicemente un caffè, oppure che avessi lasciato il rubinetto aperto del bagno nonostante l'avessi già controllato, neanche a dirlo, una decina di volte. E quindi tutti i giorni tornavi indietro a vedere se il rubinetto era chiuso, se il gas era spento? Innumerevoli volte, sì. Poi altre cose? Poi la vergogna che avevo in classe quando tutti erano ormai usciti. Io rimanevo più o meno almeno 10 minuti, un quarto d'ora nel caso migliore, a ricontrollare o comunque a inscenare con gli altri una scusa che mi permettesse di tornare in classe e verificare che non avessi lasciato nulla. Eri angosciato di lasciare qualcosa in classe? Esatto, ma non solo, perché avevo un accendino con me, quindi potevo dar fuoco. E poi quando tornavo a casa, abitavo ad un piano alto, vivevo con la costante paura di potermi buttare da questa finestra, questo pensiero come se fosse reale e io fossi davvero lì per farlo, e questa paura mi angosciava. Avevo smesso, dormivo l'essenziale, voglio dire, quello che mi serviva, ma non era un sonno riposante, e pian piano ovviamente la situazione si è davvero, davvero aggravata. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. Il Policlinico di Milano ha bisogno di te. E per noi è la notizia più importante di oggi. Il Policlinico di Milano, con i suoi medici, anestesisti, infermieri, tecnici e biologi, è in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi cosa è successo? È successo che condividendo la cosa con i miei genitori e il medico al quarto anno dell'università sono stato ricoverato in una struttura dedicata, essenzialmente nulla a togliere agli altri, ma ero un matto come tanti in questa struttura. E sei stato ricoverato con insieme a persone con problemi psichiatrici di vario tipo? Esatto, sì. E come lo ricordi questo periodo? Guarda, io quello che sto facendo è la mia testa, probabilmente quello che sto facendo è cercare di dimenticare il più possibile. Quanto tempo fa è accaduto innanzitutto? Parliamo di circa 7 anni fa. Vabbè, quindi è passato abbastanza tempo, diciamo. Sì. Ma sei riuscito a elaborare in questo tempo un periodo che immagino che non sarà stato certo sereno e felice, sicuramente. In questo tempo ho fatto dei progressi, che mi hanno permesso indubbiamente di migliorare, però come ti dicevo, quel periodo sto cercando sempre di più di rimuoverlo dai miei ricordi. E la mia testa è quello che sta facendo in automatico. Ecco, cioè, oggi com'è la tua vita? Hai ancora queste ossessioni, queste paure, quelle che ti limitavano così tanto? Sei riuscito in parte a superarle, elaborarle, trasformarle, o le senti ancora abbastanza presenti? Guarda, io dopo il ricovero fortunatamente ho trovato una struttura che mi ha aiutato tanto a mettere in piedi un pochino quelle cose che ti permettono di gestire la vita quotidiana, ossia un pochino, te la racconto banalmente, di esporsi e di rimanere, di vivere con quei pensieri, di capire che sono soltanto un'invenzione del proprio cervello. Beh, il fatto che ne parli con me significa che questo traguardo almeno l'hai raggiunto, se no te li terresti dentro, non li vorresti condividere con una persona che poi è estranea, tutto sommato. Sì, però penso che questa esperienza vada condivisa, perché una persona che vive questa cosa se ne vergogna tanto, perché si rende conto dell'assurdità delle cose che sta vivendo, tuttavia non riesce a capire come mai. Noi abbiamo un braccio ingessato, ma quando abbiamo un braccio ingessato tutto è giustificato, quando abbiamo la mente ingessata è molto difficile farlo capire agli altri. Cioè, hai percepito, hai avuto la certezza che rispetto a un problema che riguarda il cervello, diciamo, banalizziamola così, c'è ancora un pregiudizio molto diffuso e molto profondo. Qualsiasi altro tipo di invalidità, di infermità, di disabilità, di handicap, comunque sia, rientra in una sfera di maggiore tolleranza. Anzi, dicono, vedi, poverino, si è fatto male, non cammina, ha un problema cardiaco. Quando si tocca la sfera cognitiva, si abbassa un po', fa quasi paura questa roba. Tu sei sempre sentito uno con un cervello diverso e quindi qualcuno che doveva nascondere questa sua diversità. Esattamente. l'incomunicabilità di poter raccontare a qualcuno le mostruosità che mi passassero nella testa. Ma ci hai provato a parlare con persone che non fossero dei clinici, con amici, amiche, affetti, non lo so, a parte la famiglia, qualcuno che hai conosciuto dopo, che gli ha detto guarda la mia testa gira in questa maniera, sì, ti sei potuto permettere di farlo? Le persone sono e si contano sulle dita di una mano. Sono sincero, anche perché questa malattia ha un doppio problema, che cerca negli altri delle rassicurazioni, quindi non è neanche positivo condividere questo problema con troppe persone, perché in un certo senso alcune volte sembra quasi che tu ti voglia far aiutare, rassicurare che quella cosa che stai pensando in quel momento non è un problema. Ad esempio io sto pensando di aver incendiato tutto e qualcuno che mi rassicura e dice ma stai tranquillo, la sigaretta l'hai spenta bene, io non ho bisogno di questo perché questo è solo controproducente per me. Tuttavia con le persone ma più cosa strette... cosa ti dovrebbe dire una persona per farti star bene? Sì, è vero, forse l'hai lasciata accesa, andiamo a vedere, una cosa del genere. È esattamente così, è davvero controintuitivo, ma è esattamente così. Però ci vorrebbe una persona dedicata a questo punto, perché sai, le relazioni normalmente avvengono su altri piani, diciamo nel campo della tipicità. Uno può farlo una volta per farti un favore, come dice guarda c'ho questo problema, mi assecondi e ti asseconda, ma poi è un po' difficile pretendere, penso, dal nostro prossimo una sensibilità e soprattutto una capacità, perché entri in campi delicati, uno potrebbe anche nuocerti nell'assecondarti troppo. Io non so, adesso parlo a vanvera, non lo so, ma io avrei una certa reticenza nel dirti certe cose, perché poi chissà, magari gli crea un problema ancora più grosso di quello che ha. Tu hai provato con qualcuno? Con chi hai provato in particolare? Di persone non dell'ambito familiare, che la famiglia, sai, poi è obbligata a esserti vicino, sono familiari, una persona, un amico, un'amica, un affetto, non so, sei riuscita a coltivarti, diciamo, delle relazioni in questa situazione problematica? Sì, in particolare la mia compagna attuale e anche delle amicizie profonde e che hanno questo tipo di problema. Tuttavia non pretendo da nessuno di loro che facciano teoricamente quello che è richiesto da un approccio terapeutico, però è esattamente così. Il nostro approccio, quello che viene naturale, è di cercare di aiutare il prossimo, quindi di venire incontro e cercargli di non fare danno. Questa malattia è molto subdola, perché stranamente tu, cercando di andare incontro a quella persona, le stai facendo del male. Ed è molto difficile, perché io stesso nella situazione inversa mi verrebbe difficile fare una cosa diversa. Però quindi il fatto che hai una compagna vuol dire che nell'umanità banalmente, mediamente indifferente, trovate una persona che perlomeno in qualche maniera fa degli sforzi per riuscire a darti modo di avere una vita sociale, una vita affettiva. Hai trovato una persona sensibile, sì. Immagino, particolare, molto particolare. Sì, perché guarda, mi ricordo sempre le sue parole di quando ci siamo conosciuti. Lei, come puoi immaginare, è inevitabile che questa cosa venga fuori, anche perché in certe situazioni private viene fuori.

Sì, esattamente, esattamente. Ed alcune volte è anche difficilissimo da spiegarlo da dentro. Tutto quello che vivi, perché tu trasmetti immagini, ma non trasmetti quel blocco che è nel cervello, che alcune volte ti verrebbe da strapparti, da dirti mamma, perché penso così? Queste cose perché, così perché, brutte perché i cervelli non sono tutti uguali, come gli occhi sono diversi, i piedi sono diversi, le orecchie sono diverse, anche i cervelli sono diversi. È un cervello diverso dalla norma, dalla maggior parte delle persone, che regola la maggior parte delle persone. Se vivessimo in una società con tutti con questo cervello, staremmo tutti attentissimi 100 volte a ogni cosa che facciamo, perché non avremmo questo senso di fatalismo diffuso per cui, sono sicuro di quello che ho fatto, avremmo un'insicurezza generale. Ma ci sono dei risvolti, adesso non voglio sembrare azzardato, ma voglio dire positivi. Cioè la tua diversità in qualche maniera può sfociare in delle visioni, dei modi di sentire, di pensare che possono avere anche una valenza diversa, creativa, costruttiva. L'essere diverso così e vedere il mondo così diverso non ti ha mai dato degli spunti per trasformare quello che per te è un'ossessione in qualcosa che abbia un senso anche per gli altri? Non so, immagino scrivere, immaginare, dipingere, parlare. I paradisi di diversità hanno creato poesia, hanno creato arte, hanno creato musica, hanno creato tante cose utili al mondo. Quello che mi viene da dirti è che sicuramente questo problema mi ha reso più sensibile, o meglio, agli occhi degli altri più sensibile, anche se io penso alcune volte di non provare alcun tipo di sentimento perché tutto ciò che ti passa nella testa alla fine, queste cose angoscianti ti rendono così arido dentro alcune volte. Però devo essere sincero, quando guardo gli altri penso di riuscirli a capire un po' di più nella loro situazione quotidiana, nelle piccole cose quotidiane, nelle loro sofferenze quotidiane. Sfortunatamente non è sfociata in qualche attività particolare, anche perché una mente così costruita non accetterebbe, come dire, di mettersi a fare qualcosa senza che sia perfetta o comunque ben fatta o comunque. Ma cosa fai te nella vita? Hai un lavoro, un'attività? Di cosa vivi? Scusa la domanda, perché a questo punto ma è giusta, data la storia che stiamo raccontando, è giusta. Non so come ho fatto neanch'io, ma sono diventato, per ora sono manager di una grande azienda e quindi te lo dico senza peli sulla lingua, i miei più grandi problemi, come puoi immaginare, sono nella gestione delle risorse e delle persone. Però scusami, sei diventato, cioè nelle aziende non è che ti regalano niente, se sei lì vuol dire che qualcosa la sai fare, alla fine questa tua diversità di testa qualcuno ha saputo usarla, perché se ti danno delle responsabilità vuol dire che investono su qualcosa che sanno che tu sai fare, o sbaglio? Se no non staresti lì, staresti a pulire i gabinetti magari, o a pulire le scale, lavori meno impegnativi e meno di concetto, scusami, no? Sì, è giusto. Ma la mia, questa mente si è focalizzata unicamente sull'attività lavorativa e poco altro. E poco altro, vuol dire che diciamo, quella che chiamiamo, con un termine che magari non è quello esatto, un'ossessione, l'hai trasformata in un superpotere. Cioè il tuo superpotere fa sì che tu possa fare un lavoro concentratissimo, senza margini di errore, perché sei super scrupoloso. Qualcuno se n'è accorto e ti ha dato questa responsabilità. Sì, ho avuto la fortuna di trovare delle persone nel mio cammino che hanno visto anche lungo e oltre certe cose. Sì, ma mica l'hanno fatto perché sono buoni, l'hanno fatto perché tu evidentemente certe cose le fai bene, se no non ti avrebbero preso a lavorare in un'azienda con dei livelli di responsabilità come i tuoi. E su questo ti dico anche che faccio una stessa analogia di quello che ti dicevo poc'anzi sulla mia compagna, perché probabilmente ora associo anche le cose parlandone con te, chi ha visto in me professionalmente una figura data a quel ruolo, la stessa cosa la mia compagna quando ci siamo conosciuti, si è innamorata di quello che sono io senza questo problema, che è quasi uno simbolo a dire, perché non è una cosa possibile, perché questa mente, perché come dici tu, fammi capire, guarda, conosco bene gli ambiti della neurodiversità, primo perché ho un figlio autistico, secondo perché anche io sono stato diagnosticato Asperger, quindi so esattamente cosa significa, non sono problemi paragonabili a quelli che mi citavi te, però il cervello diverso ha un suo fascino di ribellione, di punto di vista originale, che la tua ragazza avrà intuito, piuttosto che un farlocco qualsiasi che gli parla della partita di calcetto, della vacanza o di dove andare a mangiare e bersi l'aperitivo, preferisce te che gli racconti, sì, le tue ossessioni, ma sono mondi fantastici, come stare vicino a Edgar Allan Poe magari, o qualcuno che ti racconta dei punti di vista talmente originali e particolari che sono affascinanti. Il problema è che sul lungo la gente si stanca, ma probabilmente sei talmente vario nel tuo essere ossessionato che lei diverte, piace, cioè nemmeno lei, non credo che faccia la Croce Rossina o la Dama di San Vincenzo, cioè mi occupo di un povero disabile, se sta con te vuol dire che ci sta bene. Guarda che le donne stanno solo se ci stanno bene con una persona, o se le completa, o se trovano un giusto compenso del loro investire in una persona. Lei investe su di te e è soddisfatta. È probabile, perché una delle tecniche a proposito con cui sto cercando di dissacrare questo problema è proprio la risata, quindi ridere sopra questa varietà di mondi che propone il cervello e assurdità più totali. È inimmaginabile i pensieri buffi che possono venire alla mente. Ma tu fai conto che la testa della media degli esseri umani è sintonizzata su Rai 1, massimo su Rai 2, su Rai 3, ti faccio una metafora. Tu immagina nella tua testa c'è tutto Netflix, tutto Amazon Prime e non so quanti altri canali digitali. Capisci, per te è difficile gestire tutto, ma per chi ha voglia, tempo e non ha pregiudizio di starti un attimo a sentire, c'è uno spettacolo un bel po' più vario rispetto alla media delle persone. Sì, ma io l'immagine che ho in testa, venendo anche un pochino da quel mondo, mi sembra di essere in una sala mercati, dove quella è un po' l'antica, sai, dove c'è la gente che strillava e tutta la giornata c'è qualcuno che strilla, ma non qualcuno, sono in tanti che strillano. Perché tu hai una percezione alterata rispetto alla media, probabilmente quello che per gli altri è una modulazione sopportabile, per te è un'ipermodulazione. Perché hai come dei sensori attivi molto più sensibili sul mondo. La maggior parte delle persone è indifferente, tu non riesci a essere indifferente, cogli dei minimi particolari, ma è per questo che ti fanno lavorare, caro, coi problemi che ci sono oggi. Ma ti pare che ti affidano un incarico di responsabilità se soltanto pensassero che tu non sei all'altezza? Ma figurati, cioè non credo che tu sia raccomandato o abbia pagato per fare questo lavoro. Evidentemente la tua follia è strumentalmente utile in un lavoro di concetto come quello che fai. Evidentemente la tua follia, concedimi il termine, parla uno che ci sta in mezzo dalla mattina alla sera, le persone folli, e lui stesso viene considerato folle, ecco. La tua follia dal punto di vista della relazione dà un'originalità di rapporto talmente interessante che sei meglio te di qualsiasi altro farlocco che sta su piazza. Fattene una ragione di questo.

si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. È interessante quello che mi dici, però... Sì, poi ti passo l'IBAN, sono 80 euro per questa chiacchierata. almeno... No, però c'è da dire che io però ogni sera mi porto a casa un peso allucinante. Cioè, e sti cazzi, chiunque se lo porta, non è che sei il solo, fattene una ragione. È allucinante, però ti permette di avere un bel lavoro e di avere una persona che ti vuol bene, che già sono due cose talmente rare che sembra già un privilegio. Quindi fattene carico, cioè il peso va bene. Tu pensa che forse era peggio se avessi avuto un problema gravissimo di salute invalidante. Cammini con le tue gambe, respiri con la tua bocca. Di questi tempi, secondo me, io starei contento, non me ne farei tanto un problema. Guarda, colgo il tuo suggerimento molto positivo. Anche sono diventati concordo. 150 adesso, con questa ulteriore indicazione. No, però ti dico anche che per esperienza ci sono tante persone con questo problema che sono rinchiuse in casa. E io non so se è stata la mia perseveranza, la mia testa dura, la mia curiosità soprattutto, che sono anche un pochino le mie tutto ciò che mi frena durante la quotidianità, che mi costringe a fare le cose precise, quadrate. Beh, però ti è andata bene, perché tu ti sei ribellato al destino di un cervello ribelle, che è quello di starsene chiuso e isolato dal mondo che la pensa diversamente. Tu hai imposto il tuo cervello diverso al resto del mondo, hai fatto un'operazione importante, gloriosa e anche ardita, perché l'istinto era quello, dice, beh, se gli altri non mi riconoscono degno di vivere, mi rinchiudo, sto da parte, mi lascio andare. Tu hai imposto la tua diversità, ma poi hai fatto un coming out estremo verso il mondo, tanto che ti è andato a lavorare, tanto che trovi una persona che ti sta vicino, che ti dico, è una rarità, le due cose messe assieme e felicemente gestite, è una rarità. Quindi il tuo bagaglio di dolore, di sofferenza, non voglio sottostimarlo, figurati, ma lo capisco, non ti immagini quanto, però ti permette di far questa vita, sai, io ho questo figlio autistico che è appassionato di favole, ci sono due favole particolari, la sirenetta in particolare, la sirenetta accetta di andare nel mondo degli uomini, quindi rinunciare alla sua alterità per vivere come gli uomini, perché è innamorata di quel farlocco lì del principe. Però lei quando cammina c'ha un dolore terribile, sì, gli hanno dato le gambe, ma è come camminare su cocci di bottiglia. Nonostante questo lei accetta di farlo, accetta una sofferenza indicibile che è il prezzo della gratificazione di vivere insieme agli altri, e alla fine è contenta, alla fine gli va bene, capisci? E più o meno è esattamente la tua cosa. Poi adesso forse ho fatto confusione, ho confuso la sirenetta con un'altra cosa, con un'altra favola. La sirenetta non canta, non parla, gli tolgono la voce. Comunque sia, nelle favole c'è sempre qualcuno che deve rinunciare a qualcosa. La principessa si deve mettere la pelle d'asino per rendersi conto veramente del suo valore, ecco. Tu hai fatto un percorso che è tipico delle favole e in questo momento ne senti il peso e la sofferenza, però ti sei guadagnato la vita, ma stai scherzando, figurati. Dai, io me ne vado, sennò dopo aumenta la tariffa e di lavorare inutilmente per pagare me. Buon viaggio, ciao, alla prossima. Ti ringrazio, ciao, alla prossima. si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.